Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Viaggio nella mente dei campioni. Ben ritrovati a Olimpia, comincia un nuovo percorso per le vie della città dello sport. Finora vi abbiamo portato attraverso le grandi storie e sempre di grandi storie di sport vi parleremo, ma quest'anno lo faremo anche per provare a entrare nell'animo e nella mente dei campioni, nel cuore e nella testa, le due veramente parti pulsanti che determinano tutta la differenza tra il successo e il fallimento e tutto quello che c'è intorno all'evento sportivo. Proveremo a viaggiare nella mente dei campioni per capire come funziona, in cosa siamo simili a questi dei dello sport e in cosa invece loro rimangono assolutamente irraggiungibili. Mio compagno di viaggio, qui al mio fianco, il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano. Professor Tirelli, ben ritrovato a Olimpia. Grazie, grazie Dario e grazie a tutti i radioascoltatori. Professore, direi cominciamo, lei sarà il nostro caronte in questo viaggio nella mente dei campioni perché oltre a prepararli atleticamente ne cura di molti di loro anche la preparazione mentale. E allora io però voglio cominciare a raccontarle, a rivivere con lei una splendida storia, la storia dell'araba fenice del nostro sport, oppure al secolo la divina. Avete già capito? Torniamo a Budapest, poco tempo fa, il 26 luglio di quest'anno. Una medaglia, sarebbe bastata una medaglia, plausibile forse il bronzo, un azzardo immaginare l'argento, impudico quasi, oltraggioso nei confronti degli dei dello sport, sperare nell'oro. Serviva del metallo comunque a Federica Pellegrini, metallo prezioso per esorcizzare paure, passato, fallimento, anche i trionfi. Perché mai si è vista una regina uscire dalla porta di servizio, lasciare il proprio regale giardino, come la stessa Fede definisce i 200 stile libero, la sua gara per eccellenza, senza tutti gli onori che merita? Era passato quasi un anno da quel 10 agosto del 2016. Sempre sui blocchi di partenza, Federica, ancora una volta in una finale olimpica, stavolta a Rio de Janeiro. La divina del nostro nuoto, dopo essere stata la portabandiera azzurra nella cerimonia inaugurale, vuole chiudere in bellezza una carriera straordinaria. Dopo l'argento sui 200 stile libero ad Atene 2004, l'oro di Pechino 2008 e il deludente quinto posto a Londra 2012, un'altra medaglia olimpica sancirebbe nel migliore dei modi l'addio alle piscine. La campionessa veneta entra in finale col terzo tempo, ma quel giorno a Rio Fede sembra nuotare nel fango. Siamo alla virata dei 150 metri, una vasca alla fine. Comunque sta nuotando bene il secondo e il terzo 50 con grandissimo equilibrio a 29,5. Adesso sale la sua azione, ma deve recuperare diverse posizioni. Davanti c'è Katie Ledecky, recuperata da Sara Siostrom, e c'è il tentativo di rimonta disperata di Federica Pellegrini sul filo della terza posizione, occupata in questo momento da Emma McKeon in corsia numero 7. Emma McKeon che mantiene però il vantaggio su Federica. Katie Ledecky che invece va a conquistare la medaglia d'oro, Sara Siostrom per la medaglia d'argento, e c'è il terzo posto di Emma McKeon. Federica Pellegrini è quarta, 1:55:18 per l'azzurra, fuori dal podio. Ancora gocciolante d'acqua, cloro, delusione e rabbia, Federica racconta così quell'amaro quarto posto. Maledetta e sfortunata medaglia di legno. No, fa male, ma non indipendentemente dal quarto posto che ci poteva stare. Il problema è che proprio da ieri pomeriggio ho un'altra persona completamente, nel senso che adesso non sto pensando alla medaglia persa piuttosto che, ma proprio alle sensazioni che ho sentito in acqua che non erano quelle che ho sentito ieri pomeriggio. Quindi per me insomma è stata una brutta sorpresa, o comunque per la fatica che stavo facendo in quel momento pensavo di stare nuotando molto più veloce. È una bracciata, sembrava che nuotassi nel fango, perché non era fluida, vero? No, non lo so, le sensazioni erano molto, molto diverse. Io ho dato tutto quello che avevo e purtroppo non è andata. Non è andata come pensavo, ma più in termini di tempo che di di medaglie, quindi è quello che mi fa molto strano. Diciamo un po' subito la gara, diciamo forse anche un po' di testa, un po' come se l'avessi sentita tutta adesso, no? Ho 28 anni, se mi sento ancora dire che subisco la gara di testa, tiro un cazzotto a tutti. I'm freezing and losing my way. I don't need another map of your head. I am freezing. Un pugno sulla testa, un pugno sul cuore. Alchimista di destini e sentimenti, Federica Pellegrini. Araba fenice che decide di risorgere da quel misto di cloro e cenere che ne ha irretito la bracciata nella vasca di Rio. Quel legno viene trasformato davvero, sì, in medaglia preziosa, ma bisogna aspettare. I dubbi se continuare o no durano poco. Non si può finire così. Federica, che pur ha vinto tutto, cambia tutto. Lavora duro col suo tecnico Matteo Giunta, cugino di quel Filippo Magnini con cui è fidanzata fin dai tumultuosi e vincenti. Doppio oro, come a Roma 2009, Mondiale di Shanghai 2011, quando per il nuovo amore le lasciò l'altro nuotatore azzurro Luca Marini. Federica comincia giorno dopo giorno a costruire la sua rivincita. In inverno arriva l'oro dei mondiali in vasca corta, l'unico che ancora mancava nel suo palmarès. In primavera scelte ancora più nette, si rompe il sodalizio sentimentale e tecnico con Magnini e Fede decide che affinerà in altura la preparazione proprio a ridosso dei mondiali ungheresi. Decisioni che nella Duna Arena di Budapest, la sera del 26 luglio, si dimostrano tutte azzeccate. Il racconto dell'impresa nella radiocronaca Rai. Si va alla virata di metà gara con la McKeown ancora in testa, la Ledecky ha recuperato posizione ed è seconda, la Pellegrini è quarta, dunque ai piedi del podio. Una buona gara perché lei esce nella seconda metà di questi 200 stile libero, la sua gara da sempre, quella in cui detiene il titolo del mondo, in cui ha vinto il titolo olimpico, in cui è stata due volte campionessa iridata. Andiamo a vedere i 150 metri e mancheranno soltanto 50 metri al termine, potremo capire davvero con Federica adesso lontana rispetto all'asse della nostra postazione che cosa potrà fare. È quarta Federica, in testa ancora la McKeown, al secondo posto la Ledecky, poi c'è la Popova, la russa. Federica assolutamente ha la possibilità di superarla, la russa può salire sul podio, può attaccare addirittura le più forti, sta nuotando molto bene Federica, è un testa a testa, può essere di qualunque colore la medaglia, può non esserci. Grandissima Federica, un finale davvero bello e dà la sensazione di poter andare avanti alla Ledecky, forse tocca prima, è campionessa del mondo, incredibile impresa di Federica Pellegrini, 1:54.73 ha battuto la Ledecky ex aequo con la McKeown. Adesso sì che si può chiudere in bellezza, confessa felice e stupita, da se stessa soprattutto, la divina. Non avrei mai scommesso sulla mia vittoria, onestamente. No. No. Mi sono tuffata per cercare la mia settima medaglia in questa gara. Anche onestamente pensavo che, insomma, quella che poi avrebbe vinto sarebbe stata Katie, quindi onestamente no. Però mi sembrava tutto rallentatore, anche in acqua ho detto cavoli sono ancora qua, invece mi aspettavo che l'australiana fosse... Allora pian piano ho cercato, poi alla virata dei 150 eravamo tutte lì, ho detto vabbè chiudo gli occhi, cioè, ma non pensavo comunque di essere davanti alle ultime bracciate perché comunque vedevo tutta schiuma. Era importante vincere una medaglia per chiudere un ciclo perché... Questo sarà l'ultimo 200 stile libero della mia carriera. Senti, Rio è dimenticato. Un anno fa raccontavamo tutta un'altra storia, hai piazzato la zampata della rivincita. Sì, sì, indipendentemente da quello per me, insomma, era importante cercare di vincere, cioè di chiudere questi 200 con un bel ricordo. E più bello di così, onestamente, hai non fatto saprei. La storia oggi? Nel mio piccolo penso di sì. I want to satisfy professor Tirelli, che emozioni che ci ha regalato Federica Pellegrini quel giorno, eh? Una delle meravigliose esperienze che tutti noi ricordiamo, e per questo io la ringrazio, credo che la ringraziamo tutti coloro che amano lo sport, ma anche coloro che non lo praticano, perché quello che ci ha trasmesso è uno degli esempi maggiori della forza della capacità della mente. Eh sì, proprio così. Allora, prendiamoci qualche istante di pausa, poi proveremo ad esplorare la mente di questa campionessa inarrivabile. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora insieme qui a Olimpia, in questo viaggio nella mente dei campioni, stiamo rivivendo le grandi emozioni che agli ultimi mondiali di nuoto a Budapest ci ha regalato Federica Pellegrini, una Federica Pellegrini che dopo questo incredibile, straordinario e per molti aspetti anche inatteso ennesimo oro sui 200 stile libero, adesso pensa al suo futuro, a un domani dove immagina lei che ci sarà un po' meno cloro e qualcos'altro in più da fare oltre la piscina. Sentiamola un po'. Logico che per fare un 100 almeno da finale bisogna lavorarci, bisogna sicuramente lavorarci, però con tutta serenità, ecco, non mi sono posta nessun obiettivo su questa distanza, vedremo cosa verrà. Sicuramente il prossimo anno ci saranno gli europei, sarà molto più leggero poi. I carichi di lavoro saranno sicuramente inferiori, anche perché non ci sarà più bisogno di lavorare per 4 vasche di gara, ma per 2. Che voi vorreste vedermi nei 200 tutta la vita, però no. È il momento giusto per farlo. Senti, e... fuori dall'acqua, che anno sarà questo in cui comunque ti dedicherai anche un po' più a te, già hai dei progetti focalizzati, delle idee? No, deve anche... No, non lo so, Isola dei Famosi. Guarda, per fare il giro dell'isola saranno almeno 400 metri, torniamo al passato. No, assolutamente. Diciamo che non ho ancora pensato a niente, sto ancora gareggiando, quindi non ho proprio avuto tempo materiale. Ma come sarà adesso il futuro di questa Federica Pellegrini velocista? Matteo Giunta, il suo allenatore, è fiducioso, anche perché quello della Divina è un talento davvero senza uguali. È la base che Fede è un atleta di talento e di una determinazione, di una voglia di fare che io onestamente non ho visto nella mia... seppur breve carriera da allenatore, e quindi non ha limiti. Ho difficoltà ad arrabbiarmi quando le cose non vanno bene, perché lei è la prima che non è soddisfatta di quello che sta facendo, di quello che fa, quindi poi mi trovo nella situazione di dover essere io invece a trovare le cose positive anche quando in allenamento non va bene. È più cattiva di te, cioè più cattiva con se stessa lei che te. Sì, è molto critica con se stessa. Secondo me essere critici aiuta tantissimo, perché aiuta ad avere sempre voglia di fare quel qualcosa in più che poi è necessario, perché sono tanti squali, tante persone che vogliono mettere la mano davanti, quindi tu devi avere quel qualcosa in più lo devi ricercare un giorno in allenamento e devi cercare sempre di, appunto, di superare i tuoi limiti, ecco. E lei lo fa ogni giorno. Questa quindi l'incredibile avventura di Federica Pellegrini agli ultimi mondiali di nuoto a Budapest. Professor Stefano Tirelli, il nostro compagno di viaggio nell'esplorazione della mente dei campioni dello sport, c'è una parola chiave che in qualche modo esemplifica questo percorso della Divina del nostro nuoto, dalla delusione di Rio de Janeiro, quella medaglia di legno amarissima, a questa incredibile rinascita che la Pellegrini ha definito come il modo in cui ho chiuso il giardino di casa, no? Perché così lei voleva uscire da quella che è sempre stata la sua gara. Sì, mi piacerebbe in effetti magari in ogni nostro incontro poter dare una parola chiave. In questo caso per la Pellegrini a me viene in mente la parola resilienza, perché è veramente l'espressione massima, questa atleta, di capacità di reazione, di reagire a quelle che sono delle situazioni di difficoltà molto profonde, per le quali molte persone, in questo caso molti atleti, potrebbero gettare la spugna, deprimersi, cosa che può accadere anche momentaneamente. La resilienza però è la capacità di fare di questa difficoltà un'opportunità di crescita. Se analizziamo la storia della Pellegrini, vediamo che chiaramente stiamo parlando di una persona estremamente combattente, ma anche combattuta. Ha avuto nella sua vita, anche di carattere privato, dei momenti difficili, ricordiamo la bulimia, situazioni di forti stress, soprattutto quando si trasferì a Milano, forse era in età ancora giovane e quindi non era pronta ad una realtà proprio così dura come poteva essere quella che di una ragazza, diciamo, di provincia poteva affacciarsi. Ha iniziato a fare gare nel 96, quindi stiamo parlando di un atleta che di volta in volta ha sempre dimostrato una grande fame di vittoria, fame di dimostrare quello che è. Ha sempre scommesso con suo padre tante cose, ha avuto un rapporto molto molto difficile ma anche molto forte con lo stesso padre, che gli ha sempre dimostrato, le ha sempre dimostrato un grande appoggio e lei ha sempre dimostrato di saperlo utilizzare, questo tipo di forza. E poi c'è stato anche l'altro padre, il CT Castagnetti, e la sua scomparsa, che certo ha rappresentato una cesura nella storia di Federica. Eh sì, perché proprio queste sofferenze, sappiamo che da queste sofferenze possiamo trarre delle forze incredibili, perché non le conosciamo, è solo nei momenti di grande difficoltà che spesso capiamo chi siamo. E una cosa che lei ha sempre detto: io trovo la forza nell'amore per questo sport. Quindi vuol dire che lei è indipendente da tutto il resto che sta fuori. E questo, se vogliamo, lo si è visto anche nei rapporti che ha nella sua storia con l'uomo, con l'essere umano maschile, per una storia molto conflittuale. Sì, con Filippo Magnini. Sempre so. Quasi anche di dipendenza, ma soprattutto di indipendenza. E questa sua forza è quello che io chiamo desiderio reale. Ogni qualvolta questa atleta si trova, come lei dice, davanti all'acqua, ecco, lei si isola in una sorta di catarsi e il mondo esterno non le appartiene più, le appartiene solo quello che è l'elemento acqua per il quale lei è nata. Forse è impossibile penetrare il segreto ultimo dei campioni, no? Perché sono fatti di materia semiumana. Ma da mental coach, ci sono delle tecniche che aiutano chiaramente questi grandi atleti a riaccendere la mente dopo una grande crisi, dopo una grande delusione, dopo una grande sofferenza? Faccio ancora riferimento a Rio 2016, a quell'amarezza. Come è stato possibile riaccendere quel motore, quel cuore e quella mente straordinaria che ha Federica Pellegrini? Osservando e analizzando ciò che è successo come parte della vita, e in questa vita analizzare i valori, i talenti, le positività che ci appartengono. Quindi sicuramente, una volta osservato ciò che è successo, in questo caso in negativo, fare tesoro di quelle che sono le positività. Quindi quello che si può fare in questo caso con un atleta è l'analisi di tutti i talenti, talento che noi sappiamo non essere sufficiente, perché una Pellegrini è una grandissima lavoratrice. Una volta che ce l'abbiamo il talento, possiamo anche perderlo, ma le grandi menti anche dello sport sono quelle che hanno dedicato migliaia e migliaia di ore di lavoro, di allenamento, oltre agli allenamenti tradizionali. Quindi lei è veramente in questo caso un esempio bellissimo di forza mentale. Mi offre l'assist per l'ultima domanda. Ha promesso Federica di tuffarsi adesso nello sprint, nei 100 stile libero, che non sono esattamente la sua gara, e di farlo, per carità, sempre con l'impegno della campionessa, ma anche con animo più rilassato, no? Dopo questa carriera straordinaria. Secondo lei sarà veramente così? Cioè, è possibile che una campionessa di quel livello e di quella struttura mentale possa tuffarsi senza quell'assoluta fame della prestazione, del risultato? No, ce l'avrà sempre, perché fa parte di sé, nel suo codice genetico. Sarà importante vedere quella che è la forza della mente, o comunque la potenzialità della mente, con quella che è la struttura muscolare, la funzionalità muscolare, perché sappiamo che con l'andare degli anni a discapito delle fibre veloci, poi subentrano fibre un pochino più lente, quindi un conto è ciò che lei vorrà fare mentalmente, un conto è quello che il fisico le permetterà di fare, che solitamente è il contrario. È nelle fasi più giovani che abbiamo una maggiore forza esplosiva e nelle fasi invece successive della vita in cui abbiamo più resistenza. In questo caso vedremo un po'. Sicuramente la fame e la voglia non le mancheranno, no? Staremo a vedere, la seguiremo sempre con affetto anche qui a Olimpia. Intanto grazie allora al professor Stefano Tirelli per averci accompagnato in questo primo ma di una lunga serie dei viaggi che faremo qui ad Olimpia alla scoperta della mente dei campioni. Grazie a voi.